seconda parte. Allora, le cose che vi ho detto sinora su Lévi-Strauss, grosso modo voi, sarà dura, ma insomma, pensate di trasferirle da un'analisi, dal campo dell'analisi delle produzioni linguistiche a un campo che apparentemente sembra totalmente diverso, strano, eccetera, eccetera, ma se ci pensate capite perché Lévi-Strauss sia stato tentato dal fare questo passaggio, possono essere utilizzate anche per interpretare classi di fenomeni o insiemi di fenomeni diversi, non in cui il linguaggio non c'entra, ma in cui il linguaggio è mescolato con una serie di altre dimensioni delle attività umane. In primo luogo, le azioni, le istituzioni o le strutture che le società si danno per funzionare, cioè per mantenere la propria coesione. Bene, anche questo livello, secondo Lévi-Strauss, è accessibile ad una analisi strutturale. Cioè anche questo livello, come sotto ai fenomeni linguistici della lingua, della produzione linguistica superficiale, cioè di quello che noi sentiamo, insomma, le frasi che diciamo, come le costruiamo, eccetera, eccetera. Lévi-Strauss, Saussure aveva tentato di rintracciare una struttura profonda, una struttura più profonda, significante, significato, langue, parole, sincronia, diacronia, sintagma, paradigma, sono tutti concetti che non descrivono la singola lingua, descrivono delle operazioni generali che ogni lingua farebbe, quindi capite l'intenzione universalista, cioè quella di trovare strutture che vadano bene per tutte queste. Allora, qualche cosa di analogo prova a fare Lévi-Strauss. È per questo che il totemismo non gli va bene, l'ipotesi totemica non gli va bene, perché l'ipotesi totemica è troppo legata alla superficialità, al livello superficiale, superficiale non nel senso, non è il termine non va preso in una sezione negativa, di superficie, di ciò che appare, di ciò che viene, delle culture, dei comportamenti culturali. I comportamenti culturali, secondo Lévi-Strauss, obbediscono a delle logiche che non sono individuabili direttamente nel modo in cui queste azioni culturali si offrono all'osservatore, no? Ma va individuato in qualche cosa di più, non c'è dubbio, di più profondo, cioè di più radicato, di più invisibile, e quindi anche per certi versi di meno virgolette esistente, cioè l'esistenza delle strutture saussuriane o lévi-straussiane, è pacifico che sia meno, cioè, sì, non è che non esistono, ma esistono ad un livello diverso da quello a cui esistono le. Allora, adesso per farla breve, penso che la cosa più interessante probabilmente sia quella di andare a prendere un lavoro specifico, perché sennò non ci capiamo. Di andare a prendere un'analisi concreta che ha fatto Lévi-Strauss di un mito specifico degli indiani della costa canadese del Pacifico, è un lavoro pubblicato nel 58-59, poi ripubblicato nel 61, relativo a un mito di gruppi indiani della costa canadese del Pacifico, quindi sono più o meno, che sono gli indiani Tsimshian. Tsimshian si scrive T-S-I-M-S-H-I-A-N. T-S-I-M-S-H-I-A-N, Tsim-Shian. Quelli Tsim-Shian che fanno parte probabilmente della grande famiglia algonchina, credo. Adesso però non mi chiedete. Io non so, insomma, si capisce che non sono un antropologo, non è che posso inventarmi, cioè, non è che ho passato anni e anni a ravanare nella bratta, nel fango con gli altri. Allora, vediamo sia pure a grandi linee che cosa fa, che tipo di lavoro fa. Lo faccio perché almeno c'è una storia, almeno ci vediamo una storia, perché sennò certo ci annoiamo. Questa è la storia di Asdival col V doppio. Questo è un mito diffuso tra questi indiani Tsim-Shian, raccolto da Boas, vi ricordate chi è Boas? Sì. Raccolto da Boas, però addirittura in quattro versioni diverse, perché lo ha raccolto in quattro occasioni diverse, prima nel 1895, poi nel 1902, poi nel 1912, poi nel 1916, sempre lo stesso mito, e ovviamente ogni volta che lo raccoglieva aveva delle variazioni, perché cioè, anche grosse, insomma, la storia cambiava, eccetera, eccetera. Questa parte non la facciamo, cioè dell'analisi delle varie versioni del mito, che sarebbe veramente lunga. Quindi pigliamo solo una delle versioni del mito, esattamente quella del 1912, quindi la penultima in ordine cronologico, e che è lunghetta, quindi almeno ci divertiamo un po', insomma, non lo so se voi vi divertite, a me, io mi diverto, è che sono un po' particolare. Allora, intanto vediamo se ho messo la carta geografica, perché se non ho messo la carta geografica... Accidentaccio al... Questo non c'entra, questo non è. E questo forse. Però non si vede un buco. Chiedete, no? Vabbè, questo ve lo racconto io in fretta, certo. Vabbè, poi adesso poi vediamo che questo questi schemini hanno a che fare con l'analisi. Cominciamo con leggere la storia, va? Che almeno ci viene più... Allora, le gesta di Asdival, A-S-D-I-W-A-L, Asdival. Boas, 1902, raccolta in dialetto Tsim-Shian sulla costa canadese nel 1912. Boas ha pubblicato il testo indigeno con la traduzione in inglese, non vi do il testo indigeno, in altro in inglese, ma vi do quella italiana. La carestia regnava nella valle dello Skeena. Il fiume è gelato, è inverno. Una madre e sua figlia, i cui mariti sono entrambi morti di fame, pensano separatamente ai tempi felici in cui vivevano insieme e il cibo non mancava. Rese libere dalla vedovanza, c'era una mamma e la figlia, sono morti tutti e due i mariti, cioè il marito di quella più vecchia è il padre di quella più giovane e il marito di quella più giovane. Cioè, fa proprio un'ecatombe. Rese libere dalla vedovanza, formulano simultaneamente il progetto di riunirsi e si mettono in cammino simultaneamente. E si mettono in cammino nello stesso momento. Siccome la madre risiede a valle e la figlia a monte, c'è un fiume, in realtà dovrei dirvi io perché non ho fatto la carta geografica, ma vedi come sono cresciuto, non ho fatto la carta geografica. Ma che deficienti che sono. Va bene. La carta geografica è, questa è una terra che scorre tra due fiumi, quasi non proprio paralleli, ma insomma quasi. E adesso capirete dalle cose che vengono raccontate qual è l'attività di questi gruppi, cioè cosa fanno questi, come si procurano da mangiare, eccetera, eccetera. Allora, la madre risiede a valle, la figlia a monte. I fiumi scorrono approssimativamente da est a ovest. Quindi a ovest c'è il mare, più o meno, non proprio sono perpendicolare, ma sono più o meno. Quindi, siccome la madre risiede a valle, la figlia a monte, la prima, la madre, si dirige verso est e la seconda verso ovest, percorrendo entrambe il letto ghiacciato di questo fiume Xina, no, Schina, S-K-E-E-N-A, Schina, in cui esse si incontrano a metà strada. Il letto è il fiume ghiacciato, quindi è inverno, possono camminare sul letto del fiume. Piangendo di fame e di tristezza, le due donne si accampano sulla riva ai piedi di un albero, non lungi dal quale esse trovano come unico nutrimento una bacca marcia, che dividono malinconicamente. Certo, non è un gran cibo, insomma. Durante la notte, uno sconosciuto rende visita alla giovane vedova. Non vi devo spiegare il sottinteso di rende visita, ok? È chiaro. Si saprà ben presto che il suo nome è Hatsenas, H-A-T-S-E-N-A-S, Hatsenas, Hatsenas. Termine che in Xinjiang designa un uccello di buon augurio. È un bel nome. No, non fate, no, adesso sapevo io che... No, no, non c'è. Nella lingua Xinjiang non c'è questo uso del termine uccello. Dice Boas, è un uccello che assomiglia al robin, cioè al pettirosso, grosso modo. Ma non è lui, dice Boas. In un altro mito il robin è l'annunciatore dell'estate. Siccome il senso del termine robin è molto variabile dall'inglese all'americano, sarebbe rischioso voler identificare la specie, quindi forse non è propriamente un pettirosso. Secondo Boas, Hatsena significa sorte e designa un uccello inviato dal cielo come messaggero. In questo studio, che non ha pretese linguistiche, abbiamo semplificato al massimo la trascrizione dei termini indigeni, limitandoci alle distinzioni indispensabili per evitare ambiguità tra i termini stati. Quindi arriva questo qua, che si chiama Hatsenas, diciamo un uccello di buon augurio. Grazie a lui le donne cominciano a trovare regolarmente cibo. E divenuta la sposa del misterioso protettore, la più giovane genera ben presto un figlio, che si chiama Astivan. Ecco già arrivato l'eroe della saga. Il nome Asdival nota ha certamente svariate connotazioni. La forma Nas o Asivil significa valicatore di montagne, però il verbo Asdival vuole dire anche essere in pericolo. E un nome simile, Asevalget, è un altro nome dell'uccello tuono, che è una specie di divinità tipica della cultura xinjiang. Allora, nasce Asdival. Asdival nasce dalla frequentazione, insomma, dalle frequentazioni notturne di questo Hatsenas e della donna più giovane. La crescita di Asdival viene accelerata in modo soprannaturale dal padre, che gli consegna molti oggetti magici. La struttura delle fiabe, avete preso. Arco e frecce infallibili a caccia. Faretra, lancia, paniere, racchette da neve, mantello e cappello che serviranno all'eroe a superare tutti gli ostacoli, a rendersi invisibile e a produrre un cibo inesauribile. Le favole anche occidentali sono piene di oggetti di questo tipo, se leggete proprio la morfologia della fiaba ce n'avete a iosa. Quindi, Asdival cresce in maniera rapida, riceve dal padre, che evidentemente è una divinità, una serie di oggetti magici, arco e frecce, faretra, lancia, paniere, racchetta da neve, mantello, cappello, che serviranno all'eroe a superare tutti gli ostacoli, a rendere invisibile e a produrre un cibo inesauribile. A questo punto la cena si scompare e la più anziana delle due donne muore. Asdival e sua madre, che è la donna più giovane, proseguono il cammino verso ovest, veniva da est, la più giovane che vanno verso ovest, e si insediano nel villaggio natale di costei, Gitzalazert, nelle gole dello Schina, nelle gole di questo fiume, adesso il nome del villaggio, anzi anche non lo sapete, un giorno un'orsa bianca scende la vallata. Un'orsa bianca. Astila comincia a cacciare questa orsa bianca. La raggiunge quasi grazie agli oggetti magici che ha, è veloce, va avanti, eccetera. A un certo punto questa orsa, a sorpresa, comincia a salire su una scala verticale. Compare una scala verticale che va verso il cielo, evidentemente, e l'orsa sale su questa scala e Azival dietro. Azival la segue sino nel cielo, che gli appare come una vasta prateria. Quindi Azival la segue fino al cielo, che gli appare come una vasta prateria, verde e fiorita. L'orsa lo porta sino alla dimora di suo padre, il sole. L'orsa è figlia del sole, hai capito? Dove essa si rivela come una graziosa giovinetta, non è affatto un'orsa evidentemente, stella della sera si chiama, eppure carina. Ha luogo il matrimonio, non senza che il sole abbia sottoposto Azival a tutta una serie di prove, dinanzi alle quali tutti i pretendenti anteriori sono deceduti. Per esempio la caccia alla capra selvatica, nella montagna dei terremoti, attingimento d'acqua dalla sorgente in fondo a una grotta le cui pareti si rinchiudono. Anche qui sono cose che ci sono note anche a noi, cioè sono diversi i contenuti, ma le forme sono simili, cioè una serie di prove a cui l'eroe viene sottoposto prima di... cioè praticamente in tutti i miti. Questi però non sono miti indoeuropei, non c'è tra Siegfried, eccetera, però evidentemente alcune strutture si può dire che possono essere simili o simili, non proprio le stesse, ma insomma. Allora, cacciare la capra selvatica nella montagna dei terremoti, attingere l'acqua dalla sorgente in fondo a una grotta le cui pareti si rinchiudono, raccogliere il legname di un albero che schiaccia coloro che lo abbattono, soggiornare in un forno ardente. Basta che leggiate Fratelli Grimm, ci sono quasi tutte queste figure nelle fiabe di Grimm. Ma che Azival supera brillantemente grazie agli oggetti magici e anche all'opportuno intervento di suo padre. Cioè, qui il nepotismo impera anche tra gli indiani e i Xinjiang. Vabbè, però è tutto normale. Sedotto dalle qualità del genere, il sole finisce per gradirlo. Dice, va bene, ok, sposati mia figlia, va bene, sei un bravo ragazzo. Eppure Azival rimpiange sua madre. La mamma Luis ha cominciato a... quindi c'è salire la scala, della mamma si è dimenticata, ciao mamma, vado, mi sposo, questa è la figlia del sole, Dio buono, che vuoi da me. Mi sono sistemato per la vita, però Azival adesso rimpiange la mamma. Che miseria. Come un qualunque figlio italiano. Il sole consente a lasciarlo ridiscendere sulla terra con la sposa, e dà loro, come provviste di viaggio, 4 panieri colmi di cibo inesauribile. Altro, ovviamente, oggetto magico simile, altro oggetto magico noto, che valgono alla coppia un'accoglienza riconoscente da parte dei villaggi, in preda alla carestia invernale. Questa parte del mito di oggi d'inverno. Questi indiani qua d'inverno non c'hanno nulla, cioè i fiumi sono gelati, quindi i pesci non li possono pescare. Gli alberi sono spogli, verdura, non c'è neanche mangiano, niente. No? O hanno fatto delle belle provviste durante l'estate, oppure ciccia. Adesso quindi Azival è tornato sulla terra con la moglie. C'ha questi panieri, 4 panieri colmi di cibo, quindi ha grande successo sociale. Tutti quelli che fa, che bello. Nonostante i ripetuti avvertimenti di sua moglie, Azival la inganna con una del villaggio. Anche questa è una storia ben nota. Nonostante i ripetuti avvertimenti della moglie, Azival la inganna con una donna del villaggio. Stella della sera, la moglie, offesa, se ne va, seguita dal marito desolato. Giunto a un'altezza equidistante fra cielo e terra, Azival viene folgorato da sua moglie, che scompare. Posso? Ma vaffanculo, gli fa la moglie. Gli butta una bella saetta. E gli muore. Azival muore. La moglie lo ha fulminato. Ma ben presto, rimpianto, viene resuscitato dal suocero celeste. Il suocero è tollerato, vai. È resuscita, va bene. Tutto va bene per un certo periodo. Poi Aldival prova di nuovo nostalgia della terra, quindi è tornato sopra, Di nuovo nostalgia, sua moglie accetta di accompagnarlo sin lì e gli dice addio definitivamente, questa volta non sta con lui però. Di ritorno al villaggio, è tornato sulla terra Aldival, quindi torna al villaggio e lì l'uomo prende la morte della madre. Nulla lo trattiene più ed egli si rimette in cammino verso la valle. Giunto alla città Xinxian di Ginangjoget, seduce e sposa la figlia del capo locale. All'inizio il matrimonio è felice e Aldival con i suoi 4 cognati, all'epoca 4 cognati, 4 fratelli della moglie, va a caccia della capra selvatica e riporta successo grazie ovviamente agli oggetti magici. Da solo Aldival non combina nulla, però con gli oggetti magici fa sempre bella figura. Con l'avvicinarsi della primavera tutta la famiglia si sposta e dopo un soggiorno a Metlakatla si dirige in barca verso il fiume Nas, quindi verso l'altro dei due fiumi che definiscono questa, diciamo, regione. Il primo era il fiume Skina, sul cui letto gelato si era svolta la prima parte del mito, adesso arriva l'estate, le acque si sciolgono, si sposta lungo il fiume Nas, risalendo lungo la costa. Vengono fermati dal vento contrario e si accampano per un certo periodo a Xemaxem. Qui le cose si guastano per via di una disputa tra Aldival e i suoi cognati sui rispettivi meriti dei cacciatori della montagna e dei cacciatori del mare. Ha luogo una gara. Aldival ritorna dalla montagna, guardate che Aldival è nato in montagna, non è nato sul mare. Mentre probabilmente i suoi 4 cognati sono gente di mare, che ha più dimestichezza, no? Che sono più vicini alla foce del fiume. Quindi ha luogo una gara. Aldival ritorna dalla montagna con le spoglie di 4 orsi. Lui dice, io faccio la caccia sulla terraferma. Torna, fa fuori 4 orsi. Mentre i cognati tornano con le pive nel sacco dalla loro spedizione marittima. Loro sono andati a cercare pesci, ma non hanno trovato nulla, quindi sono stati... hanno fatto una pessima figura nei confronti di Aldival. Umiliati e pieni di rabbia, levano le tende portando con loro la sorella e abbandonando Aldival. Quindi Aldival li ha umiliati, loro gli dicono, sai che c'è di nuovo? Ci portiamo via nostra sorella e ciao. Aldival viene quindi raccolto da stranieri venuti da Ghizzakla che si dirigono verso il Nas, verso l'altro fiume, per la stagione del pesce candela. Il pesce candela è un pesce fondamentale in questo mito, ma anche nella vita reale degli indiani Tsimshian, in più è un pesce come tutti i pesci migratore, che fa una cosa particolare, quindi compare solo in un certo periodo dell'anno, se non ricordo male, va dalla foce verso la sorgente, lungo, come il salmone un po', e quindi lungo questo percorso può essere intercettato e pescato dagli uomini. Allora, quindi c'è la stagione del pesce candela. Come nel caso precedente, costituiscono un gruppo composto di 4 fratelli e una sorella, che Aldival ovviamente si affretta a sposare, che deve fare. Insieme arrivano ben presto al fiume Nas, dove vendono molta carne fresca e molto salmone ai Tsimshian, già stabiliti sul luogo e affamati. Siccome la pesca è stata buona, hanno pescato un sacco di roba, tutti quanti prendono la via del ritorno. Gli indiani Tsimshian a Metlakatla, che è la loro capitale. I Ghizzakla, che sono quelli stranieri da cui sono venuti per raccogliere, che hanno salvato, insomma, Aldival. Israel vanno invece a Laxakan, un'altra città, dove Aldival diventa padre di un maschietto. Ora egli è ricco sempre. Ha fatto una grande pesca, ha cambiato tribù, quindi eccetera. Un giorno d'inverno egli si vanta di poter cacciare meglio dei cognati il tricheco in alto mare. E sempre con questi cognati, cioè, c'è sempre un conflitto tra i cognati. Io so fare meglio, io faccio meglio, io faccio meglio. Stavolta però Aldival non caccia gli animali terrestri, ma addirittura vuole sfidare l'altro ambiente, quello del mare, su cui evidentemente finora non ha dimostrato grandi, cioè non la padrona, lui non viene dal mare, lui viene dalla terra, cioè, comunque dice no, sono più bravo io a cacciare il tricheco che voi in alto mare. Vi si recano insieme, però c'ha gli oggetti magici. Grazie agli oggetti magici Ardival fa una caccia miracolosa su uno scoglio dove i cognati impermaliti, quella sarà per semplice, ma come se c'è fatto, che fai? Allora, che cosa fanno? È vero, tu hai fatto la caccia. Allora noi ti abbandoniamo qua, sono impermaliti, abbandonano Ardival sullo scoglio dove lui ha fatto la pesca senza cibo e senza fuoco. Si leva una tempesta, lo scoglio viene spazzato dalle onde, ma appare il padre di Ardival che lo salva. E come lo salva? Lo tramuta in un uccello. Così c'è il mare in tempesta, Ardival tramutato in uccello, sta sopra le onde e riesce a salvarsi. E gli oggetti magici gli servono da gruccia. Lui costruisce una specie di scaletta con, che sono tanti questi oggetti, guardate, c'è la rete, c'è la roba, eccetera, si arrampica su questa cosa, fa l'uccello marino, però attaccato a questa specie di roccia che evidentemente è più alta dello scoglio su cui sta. Se stava sullo scoglio sarebbe, il mare l'avrebbe spazzato via. Dopo 2 giorni e 2 notti la tempesta si placa e Ardival si addormenta esausto. Lo sveglia un topo. E lo conduce nella dimora sotterranea dei trichechi, che egli ha ferito, eh? Attenzione, lui ha fatto la prova, ai trichechi gli ha fatto un mazzo tanto, li ha veramente massacrati. Però questi trichechi sono un po' delle buone lane, un po' ingenui. I trichechi si immaginano di essere vittime di una epidemia, a buona ragione, ma perché le frecce di Ardival sono invisibili, è come le frecce di Apollo, eh? Quando Apollo nell'Iliade butta, ricordate nel secondo libro, terzo libro, la butta, porta la peste nel campo dei greci, e porta, cioè, la fa, arriva Apollo, comincia, lancia le frecce, ma le frecce di Apollo. Omero non è chiarissimo su questo punto, però noi possiamo supporre che non siano visibili. Cioè, in realtà noi sappiamo perché è Omero che ci racconta, è Omero che ci racconta che arriva Afrodite, che sennò tutti gli dei sarebbero invisibili. Se non ci fosse un narratore extra diegetico che ci dice guardate che le cose stanno così, così noi non, cioè, saremmo come i greci, probabilmente i greci lo sanno per altri motivi, perché i greci dentro di fa parte della loro, diciamo, cultura. Questi Tsimshian sono gli Tsimshian. No, sono i trichechi. Questi trichechi sono più gnocchi dei greci, cioè proprio non se ne rendono conto, non vedono le frecce e dice sarà un'epidemia, perché le frecce di Ardival sono invisibili. Ardival estrae le frecce e quindi guarisce i trichechi, ai quali chiede in cambio di assicurargli il ritorno. Beh, adesso che vi ho guarito datemi una mano a tornare. Purtroppo le imbarcazioni dei trichechi, pensate, che consistono nei loro stomaci, i trichechi estroflettono i loro stomaci, e questi stomaci si trasformano in barchette, in imbarcazioni. Purtroppo però queste imbarcazioni sono fuori uso, perché sono forate dalle frecce del cacciatore. Asino li ha colpiti, quindi è vero che li ha poi guariti, però i buchi nelle frecce, quindi non si possono usare gli stomaci dei trichechi, no, che normalmente, in tutto il mondo, si usano come imbarcazioni, in questo caso non si possono usare perché le frecce le hanno danneggiate. Il re dei trichechi presta dunque ad Ardival il proprio stomaco, evidentemente l'unico rimasto sano, a guisa di barca, incaricandolo di rispedirglielo sollecitamente, non farmi stare senza stomaco troppo tempo, che poi devo anche dire. Se no mi viene l'ulcera. Approdando sulla costa, l'eroe scopre sua moglie inconsolabile. Ragazzi, perché c'era anche la moglie, non è che era morta la moglie. La moglie e il figlio. Trova e dice, oh, mia moglie e mio figlio, cari, come state? Questo invece di dirgli mascalzone e pigliare il mattarello e romperglielo sulla testa, tutti contenti, dice, grazie all'aiuto di questa buona sposa, ma cattiva sorella, è una buona sposa, perché però ha tradito i suoi fratelli per passare dalla parte del marito. Questa cattiva sorella che compie i riti indispensabili al successo dell'operazione, Asdival cosa fa? Fabbrica delle orche, killer whale, dei pesci che ammazzano le balene, di legno scolpito. Scolpisce delle orche, quindi delle cacciatrici di balene, le anima, ed esse, sfondando le imbarcazioni a colpi di pinne, provocheranno il naufragio e la morte dei cattivi cognati. Non ne scappa una. I cognati l'hanno mollato lì sullo scoglio, lui ci ha messo un bel pezzo prima di riuscire, ma prima o poi si vendica. Si è vendicato però con l'aiuto della moglie, cioè della sorella, sorella di questi quattro, e lui ammazza i cognati. Accidenti, ma Asdival prova di nuovo una irresistibile nostalgia per i luoghi della sua infanzia. È fatto così. Lascia la moglie e torna nella valle dello Schina. Torniamo all'inizio del mito. Si stabilisce nella città di Ginnadaos, dove lo raggiunge suo figlio, a cui egli dà il suo arco e le sue frecce magiche, ricevendone in cambio un cane. Giunto in inverno, Asdival parte a caccia in montagna, ma dimentica le sue racchette da neve. Smarrito, incapace di salire e di scendere senza l'aiuto delle racchette di neve, la neve viene tramutato in pietra assieme alla sua lancia e al suo cane. E in questa forma, in forma di roccia, è sempre possibile vederlo in cima alla grande montagna del lago di Ginnadaos. E così finisce questa versione, che è la più lunga e la più complessa del mito di Asdival. Allora, qui c'è una cartina, ma è possibile che non l'ho messa questa cartina, ci viene. Io ho convinto di averla messa. Ma invece non c'è, perché io mi invento che ci sia. Perché non l'abbiamo vista. No. Niente, non c'è la cartina, perché ella è un'altra cosa. Va bene, ce la teniamo così. Adesso voi vi chiedete, ma come fa Lévi-Strauss a trovare un senso in tutta questa congiere di fatti, eccetera, eccetera? Allora, attenzione, certo, Lévi-Strauss tiene conto di alcuni dati accessibili al lettore, diciamo all'ascoltatore del mito, e quindi per diciamo indirettamente anche evidentemente a noi, e alcune notizie generali sulla... Però poi adesso vediamo che tipo di operazione fa. Allora, intanto fa una serie di considerazioni Lévi-Strauss sul contesto geografico. Il racconto inizia nella valle dello Schina, dove le due eroine, partendo l'una dal villaggio a monte, l'altra dal villaggio a valle, questi due fiumi, Nas e Schina, grosso modo, scorrono più o meno paralleli da nord cos'è qua? Nord-est, da nord-est verso sud-ovest. A sud-ovest c'è una costa praticamente qui siamo appena sotto l'Alaska, sopra c'è appena l'Alaska, quindi siamo all'inizio del Canada, si incontrano a metà strada. Dopo la morte della madre, la giovane donna e suo figlio si fisseranno nel villaggio natale di Costei, cioè quello di suo padre, dove la madre era risieduta dal matrimonio sino alla vedovanza, il villaggio a valle. Qui si situa l'episodio della visita al cielo. Attenzione, qui bisogna sapere qual è la struttura della società Tsingtian, se è matrilineare o patrilineare, se è matrilocale o patrilocale. Evidentemente, se la giovane donna e il figlio si fissano nel villaggio natale della madre, non siamo sicuri che la linea di esistenza sia matrilineare, ma è sicuramente matrilocale, cioè il figlio viene, a parte che non c'è più il padre perché è stato lì, perché è un dio, però diciamo di fatto il figlio cresce dove sta la mamma, quindi siamo in una società di tipo matrilocale. Questo villaggio è chiamato Ghizalasert, cioè gente delle gole, era situato non lontano dalla città, ma questo non ce ne frega nulla. Alla morte della madre, Asdival continua a dirigersi verso valle, cioè verso ovest. Si stabilisce nella città di Ginanxioghet, dove si sposa. Qui ci troviamo nel vero e proprio territorio Tsingtian, sul basso Stina. Quando Asdival parte con moglie e cognati sul Nasper per scavi il pesce candela, essi si avviano dapprima nell'estuario dello Stina, poi prendono il mare e si fermano nella capitale degli Tsingtian, che è Metlakatla. In realtà ce n'è due di città con questo nome. La vecchia Metlakatla è sulla costa, a nord di Prince Rupert, città contemporanea a Boas quando trascrive il mito. A metà strada tra l'estuario dei due fiumi, in mezzo all'estuario dello Schina e all'estuario del Nas. Anche Xemaxen, dove avvengono la prima disputa e il primo abbandono di Asdival da parte dei cognati, si trova pure sulla costa, un pochino più a nord. Allora, queste sono tutte allora, insomma, per farla breve, nella prima parte del mito il movimento è da valle, da monte verso valle e da extraterritorio, da fuori territorio Tsingtian, dentro il territorio Tsingtian. La seconda parte del mito invece descrive un viaggio in senso contrario, quindi da valle verso monte e dal territorio Tsingtian in territorio non Tsingtian, cioè extraculturale per quella tribù. Attenzione, l'eroe eponimo, l'eroe Asdival, muore quindi fuori casa, muore in esilio, non muore a casa sua, viene trasformato in rupe. Primo aspetto, quindi questo è l'aspetto geografico. Aspetto economico. Le attività di questo tipo a cui il mito fa partecipare non sono meno reali dei luoghi geografici delle popolazioni evocate nei paragrafi precedenti. Quindi si parla di, come dire, popolazioni reali, anche nel mito. Tutto comincia con una carestia invernale, come ne conoscono gli indigeni durante il periodo che va da metà dicembre a metà gennaio. È effettivamente un periodo in cui lì non cresce nulla, non ci sono pesci perché il fiume è, diciamo, gelato e non c'è un tubo. Si aspetta prima l'arrivo del salmone di primavera e poi l'arrivo del pesce candela. Il periodo tra l'arrivo del salmone e quello del pesce candela, che evidentemente risalgono i fiumi, viene detto l'intervallo. Dopo la sua visita al cielo, Asdival partecipa alle migrazioni primaverili verso il Nas per la pesca al pesce candela. Poi si assiste al ritorno delle famiglie sullo Schina nella stagione del salmone. Quindi nel Nas si pesca il pesce candela, sullo Schina si pesca il salmone, ma più o meno all'inizio, diciamo, della bella stagione. Queste variazioni stagionali, per riprendere un'espressione di Marcel Mauss, vanno di pari passo con altre differenze non meno reali, sottolineate dal mito, in particolare fra cacciatore di terra, incarnato da Adivar, lui è nato in terra, nato nel fiume e a monte, cioè all'interno delle terre, e cacciatore di mare, e cacciatori di mare, che sono l'opposto di Ardivar, e che sono incarnati dapprima dalle genti degli abeti, che vivono a valle, sull'estuario, e poi ancora più nettamente da quelli che stanno sulle isole di Dolphin Island, che sono quelli che lo mollano sullo scoglio a pigliare freddo. Quindi questo è l'aspetto economico. Allora, il mito sottolinea un aspetto geografico, poi un aspetto economico. Vediamo qual è l'aspetto sociologico. Qui, dice Lévi-Strauss, ci troviamo di fronte ad una maggiore libertà. Non si tratta di un quadro fedele e come documentario della realtà indigena, ma di una fede di contrappunto che ora accompagna questa, la realtà, ora sembra allontanarsene per raggiungerla. La sequenza iniziale del mito evoca condizioni sociologiche definite. La madre e la figlia sono state separate dal matrimonio di quest'ultima. La figlia si è sposata, è andata via, quindi stanno in due lì. E da allora ognuna si è stabilita con il marito nel villaggio di lui, patri locale. Nel caso della più anziana delle due donne, il marito era anche il padre della più giovane, che ha quindi lasciato il villaggio natale per seguire a monte il proprio sposo, la moglie più giovane. Nel caso della più anziana delle donne, il marito... Riconosciamo una società in cui, benché la filiazione sia matrilineare, quindi conta la mamma nel conto della discendenza, è una società matrilineare, ma la residenza è patrilocale, cioè la moglie in realtà segue il marito, che no, non è la stessa cosa, non vuol dire la stessa cosa, matrilineare e matrilocale. Matrilineare indica la discendenza. Che cosa conta per, cioè da chi eredita per esempio il figlio? Se la struttura è matrilineare, il giovane erediterà quasi sempre dal fratello della madre, cioè dallo zio materno, che sarà una figura fondamentale, più del padre, se la discendenza è matrilineare. Questo però può andare benissimo di pari passo invece con una regola che assegna il domicilio del giovane, del bimbo, del piccolo, invece con con il padre, non è detto che sia, infatti qua siamo matrilineari e patrilocali. I bambini, pur appartenendo al clan della madre, sono allevati dal padre e non dai genitori materni. Questa effettivamente era la situazione fra gli Tsimshian, forse non ai tempi storici in cui Boas fece le sue ricerche, già le cose cominciavano a cambiare all'epoca, ma questa era la struttura tradizionale delle società Tsimshian. Infatti dice Boas, un tempo i grandi capi erano soliti prendere in moglie una principessa per ogni tribù. Taluni avevano perciò non meno di 16 o 17 spose, cosa che sarebbe impossibile se un uomo dovesse risiedere nel villaggio natale di sua moglie, quindi ovvio che dovevano essere patri locali. Più in generale, dice Boas, parecchi fatti indicano che la giovane coppia si stabiliva presso i genitori del marito, tanto che i bambini crescevano nella dimora paterna. Ora, nel mito, questo modo patrilocale di residenza viene bruscamente interrotto dalla carestia, che libera le due donne dai rispettivi obblighi, addirittura i mariti sono morti, e permette loro, alla morte dei mariti, di ritrovarsi dove? A metà strada. Si trovano a metà strada le donne, hanno fatto mare, monte, mare interno, costa interno, loro si trovano a metà strada. Il fatto che si accampino ai piedi dell'albero sulla riva del mare gelato a una pari distanza più o meno tra monte e valle offre l'immagine di un mondo matrilocale di residenza ridotto alla sua espressione più semplice, perché il nuovo gruppo familiare consiste solo in una madre con sua figlia. Il fatto che il padre non c'è perché è morto o perché nel caso è sconosciuto, perché è un dio che poi se n'è andato, questo rovesciamento appena abbozzato è tanto più notevole in quanto tutti i matrimoni successivi saranno invece matrilocali, cioè contrari al tipo reale. Tutti i matrimoni che Ardivar fa dopo, cosa fa? Non porta le mogli, va lui a stare dalle mogli, quindi sono matrilocali. C'è un cambiamento di struttura. Anzitutto il matrimonio di Atenas con la donna più giovane. Per fuggevole che sia questa unione tra un essere umano e un essere soprannaturale, resta il fatto che quest'ultimo risiede da sua moglie e dalla madre di costei. La sfumatura matrilocale diventa ancora più netta in un'altra versione che non leggiamo. Il matrimonio matrilocale, accompagnato da antagonismo fra marito, ricordate, ci sono gli scazzi tra Asdival e i suoi cognati, quindi lui va a stare dalla moglie, quindi c'è una matrilocalità, ma c'è un antagonismo tra marito e parenti acquistati, e questo si vede anche nel matrimonio di Asdival con Stella della Sera. La coppia sta dal padre di lei, e questo suocero dà prova di tale ostilità nei confronti del genero, da imporgli prove che sono ritenute notarie. Ricordate, lui si salva solo perché gli ha detto mai, se no non ce l'avrebbe mai fatto. Pure matrilocale è il secondo matrimonio di Asdival fra la gente degli alberi, accompagnato da ostilità tra il marito e i cognati, perché costoro lo abbandonano costringendo la sorella a seguirli. Anche il terzo matrimonio rivela lo stesso tema, almeno all'inizio è quello in cui Asdival si trasferisce tra la gente dei canali. Infatti però solo nella prima parte. Dopo la visita di Asdival ai Trichechi, la situazione si rovescia. Asdival ritrova sua moglie, che aveva rifiutato di seguire i fratelli, quindi c'è uno scarto. Mentre nel secondo matrimonio la moglie si perde, nel terzo la moglie viene ritrovata e quindi questo, la conflittualità tra Asdival e i cognati questa volta si risolve a favore di Asdival e non a sfavore come nella cosa precedente. C'è di più, la moglie gli offre la sua collaborazione per ordire la macchinazione, nel senso proprio e figurato, grazie alla quale Asdival si vendicherà dei cognati. Infine il patrilocalismo trionfa quando Asdival abbandona la moglie, mentre nei matrimoni precedenti era stata la moglie ad abbandonarlo, e ritorna al suo schina natale, dove il figlio va da solo a raggiungerlo. Cominciato con il racconto della riunione di una madre con la figlia, liberate dai loro parenti acquisiti o paterni, il mito si conclude con il racconto della riunione di un padre con il figlio, All'inizio la madre si riunisce con la figlia, poi muoiono entrambe, ma vabbè, però c'è questa riunione, madre e figlia. Alla fine la riunione è del padre col figlio, liberati dai loro parenti acquisiti o materni. Se la sequenza iniziale e la sequenza finale del mito costituiscono comunque, da un punto di vista sociologico, una coppia di opposizione, lo stesso può dirsi dal punto di vista cosmologico. Eccoci al quarto livello, adesso parliamo della struttura del mondo, perché c'è della cosmologia, lui va nel mondo del sole, va, praticamente fa alto basso, tutto. Dal punto di vista cosmologico ci sono due viaggi soprannaturali che interrompono il periplo, le peregrinazioni reali dell'eroe. Il primo viaggio lo conduce in cielo, nella dimora del sole, che dapprima vuole la sua morte e poi alla fine consente a resuscitarlo. Il secondo dove lo porta? Dai Trichechi, cioè in un regno sotterraneo, quindi dal cielo a sottoterra. dai Trichechi che da lui stesso feriti o uccisi, ma che egli accetta di curare e di guarire. Il primo viaggio sbocca in un matrimonio matrilocale, come si è visto, che testimonia d'altronde uno scarto esogamico esasperato, c'è una esogamia molto forte, perché? Perché qui un terrestre sposa una dea, quindi più esogamia di così si muore. Ma tale matrimonio verrà rotto dall'infedeltà di Asdival con una compaesana. Cioè si tratta di un abbozzo di matrimonio che, se avesse avuto luogo, avrebbe neutralizzato, per così dire, il matrilocalismo, in quanto marito e moglie avrebbero allora la stessa residenza, e sarebbe caratterizzato da prossimità endogamica, si sarebbe sposato con una del suo villaggio, per quanto anch'essa esasperata. È vero che il secondo viaggio soprannaturale dell'eroe nel regno sotterraneo delle orche non dà luogo a un matrimonio. Tuttavia tale visita determina, come abbiamo già mostrato, un rovesciamento della tendenza matrilocale dei successivi matrimoni di Asdival, distaccando la terza moglie dai fratelli. L'eroe stesso distaccare loro stesso da sua moglie, distaccando il loro figlio da sua madre e lasciando sussistere la sola associazione tra padre e figlio. Adesso, già da quello che vi ho detto sinora dovreste aver capito come più o meno, diciamo, ragiona Lévi-Strauss sulla, nel suo commento, nella sua elaborazione sui miti. Cosa ha fatto? Ha lasciato perdere, o meglio, ha interpretato tutte le particolarità del racconto collegandole con delle opposizioni, con delle coppie opposizione. Non è un metodo simile a quello della linguistica di Saussure, eh? Paradigma, sintagma, langue parole, siamo sempre, lavoriamo sempre su una barra, significante e significato, lavoriamo sempre su una barra. Abbiamo un insieme, perciò possiamo moltiplicare tutte queste categorie, ma saranno sempre opposizioni binarie. Non abbiamo abbandonato il terreno del mito, però nel momento in cui io comincio a dire, che cosa vuol dire sta roba? Perché è interessante? Perché prima Attiva sta in terra e poi va in cielo, perché poi torna sulla terra e poi va sottoterra. Sto elaborando delle categorie generali che dopo un po' possono prescindere, no, dagli avvenimenti concreti narrati. Sotto c'è una struttura, terra-cielo, alto-basso, una struttura sempre diadica, sempre oppositiva, sempre due categorie opposte che si fronteggiano. La situazione iniziale, dice Lévi-Strauss, può essere riassunta con cinque coppie oppositive, la situazione all'inizio del mito, perché abbiamo una madre e una figlia, quindi c'è un'opposizione madre-figlia. Abbiamo una opposizione tra più anziano e più giovane, la madre è più vecchia della figlia, come ovvio. Abbiamo una contrapposizione a valle a monte, una parte dalla valle e l'altra parte dall'interno. Abbiamo un'opposizione ovest-est, perché sì, l'asse dei fiumi è più o meno ovest-est, ma abbiamo anche una opposizione nord-sud, perché un fiume sta più a nord dell'altro. L'incontro avviene a metà strada, ubicazione che corrisponde, come abbiamo visto, a una neutralizzazione della residenza patrilocale e alla realizzazione delle condizioni di una residenza matrilocale lasciata ancora allo stato di abbozzo, perché poi dopo verrà tolta. Ma siccome la madre muore proprio nel luogo dell'incontro e della nascita di Ardival, il movimento essenziale inaugurato dalla figlia che lascia il villaggio del matrimonio lontanissimo a monte prosegue nella direzione est-ovest fino al suo villaggio natale nelle gole dello Schina, dove essa muore a sua volta, lasciando campo libero all'eroe. La prima avventura di Ardival suscita un'opposizione, l'opposizione cielo-terra. Ardival si sposa in cielo, quindi va in cielo e è riapposto alla terra. Com'è questa opposizione? Tranquilla o conflittuale? Vi ricordate? Conflittuale, cazzo, il padre gli fa un mazzo così, gli dice fai questa prova, fai l'altra, bla bla, eccetera. Se non ci fossero le robe magiche, Ardival sarebbe morto. Che l'eroe riesce dapprima a superare grazie all'intervento del padre. Il padre è l'uccello di buon augurio Atenas, animale del cielo atmosferico o medio. Attenzione, non è l'aquila questo uccello, animale dei cieli superiori, è già un animale mediatore. Occupa il cielo, sì, ma occupa una posizione intermedia del cielo. Quindi non è una opposizione totale cielo-terra. Atenas è già in una posizione mediatrice, ben qualificato per conseguenza per avere funzioni mediatrici tra il terrestre Asiva e suo suocero il Sole. Il Sole sì che invece è alto, il Sole è il signore del cielo empireo, del cielo alto, Atenas no. Tuttavia Asiva non riesce a superare la propria natura terrestre, a cui si abbandona due volte, cedendo prima alle grazie di una compaesana e poi una alla nostalgia del suo villaggio. Quindi abbiamo una serie di ma se non le trovo viene dopo, le do tutte poi, chi lo sa, non faccio un coraggio. Ma non lo fate proprio. Allora, ho fatto solo questa, ok. Allora, le opposizioni che non sono risolte sono basso-alto, generica, terra-cielo, uomo-donna, endogamia-esogamia, cioè sposarsi all'interno del gruppo, sposarsi all'esterno del gruppo. Proseguendo il cammino verso ovest, Asdrubal contrae un secondo matrimonio matrilocale che genera una nuova serie di opposizioni. Un'opposizione tra la terra e l'acqua e un'opposizione tra la caccia in montagna e la caccia al mare. Tali opposizioni sono parimenti insormontabili, in quanto la natura terrena di Asdrubal prevale per la terza volta, con la conseguenza del suo abbandono da parte della moglie e dei figli. L'ultimo matrimonio di Asdrubal viene contratto non più con rivierasti ma addirittura con insulari, e lo stesso conflitto si ripete. L'opposizione continua a mostrarsi insormontabile. Anche questa volta, infatti, c'è un antagonismo tra Asdrubal e i suoi fratelli, in occasione della caccia allo scoglio. Se non avesse avuto i suoi oggetti, non ce l'avrebbe fatto. Quindi, sul piano spaziale, l'eroe è del tutto fuorviato dal suo itinerario. E il suo fallimento si esprime proprio in questo scarto massimo rispetto al suo punto di partenza. Lo facciamo allontanare, lo portiamo in una situazione lontanissima dal punto da quella dalla quale è partito. Sul piano logico ha pure fallito per la sua impotenza ad avere funzione di mediatore, in quanto l'ultima opposizione da superare tra genere di vita dei cacciatori terrestri e marini si sia ridotta a uno scarto minimo. Apparentemente è un vicolo cieco, ma nel punto morto interviene un rovesciamento che rimette in moto la macchina del mito. Il re delle montagne, Asdrubal si dice nel dialetto del Nas, Asivil, che vuol dire colui che valica le montagne. Allora, il re delle montagne è bloccato su una montagna derisoria, su uno scoglio. È una derisione, cazzo. Lui si chiama valicatore di montagne, sta bloccato su uno scoglio. Circondato e quasi sommerso dal mare. E il signore della selvaggina, uccisore di orsi, chi lo salva? Ricordate chi lo salva? Un topo. Quindi un animale ridicolo, infimo, che lui come grande cacciatore dovrebbe... No, allora è il topo che lo salva. Sto topo gli fa compiere un viaggio sotterraneo. Come l'orsa, pensate, selvaggina suprema, gli aveva fatto fare un viaggio in cielo. Quindi l'orsa, che è una delle selvaggine più appetibili, più grosse, lo porta verso l'alto. Il topo lo porta verso il basso, i trichechi, il mondo sottomarino, quindi il sotterraneo, eccetera. In verità, al topolino manca solo di tramutarsi in donna per offrire all'eroe un matrimonio simmetrico inverso dell'altro. Ma sebbene questo elemento manchi in tutte le versioni, ce n'è una, che non vi ho letto, una versione in cui il topo si rivela essere una fata. Ce n'è una sola, va. Una signora topo la chiamano i testi. Proseguendo più sistematicamente il rovesciamento di quanto l'ipotesi precedente non avrebbe permesso, questa fata è una vecchia, inadatta alla procreazione, quindi è una sposa rovesciata, paradossale. È una donna, ma non può svolgere la sua funzione di procreatrice. Non è tutto. L'uccisore di animali a centinaia, questa volta cosa fa? Li guarisce. Sì, perché deve tornare a casa, eccetera, ma quindi fa l'opposto di quello che fa il cacciatore di solito. Il nutritore, potere che ha ricevuto da suo padre e che esercita a più riprese a vantaggio dei suoi, diviene nutrimento. Perché? Perché viene trasportato nello stomaco dei trichechi. È vero che sono delle navi, sono delle barche, lo so, però sono lo stomaco di trichechi, quindi lui sta dentro lo stomaco di trichechi, quindi è come se metaforicamente diventasse cibo per i trichechi. Infine la visita al mondo sotterraneo, che è anch'esso per molti aspetti un mondo alla rovescia, determinerà il ritorno dell'eroe, perché lì si dirigerà ormai da ovest a est, dal mare verso terraferma, dall'acqua salata, dell'oceano verso l'acqua dolce del fiume Schina. Questo rovesciamento generale non influisce sullo svolgimento dell'intreccio, che prosegue fino alla catastrofe finale. Ritornato tra i suoi alla situazione patrilocale iniziale, Asdival ha ripreso il suo mestiere di elezione, cioè vivere dei suoi oggetti magici, ma dimentica uno di essi. Mi sa cosa dimentica? Le racchette, mi sembra. Incidente al quale non c'è rimedio. Alla fine di una caccia fruttuosa viene a trovarsi bloccato in montagna, a metà altezza. In between, in mezzo, nel transito, però gli manca lo strumento per transitare. Non può né salire, non poteva scendere, non poteva andare in nessuna direzione. Quindi è del tutto normale che venga paralizzato nel posto dove si trova, quindi trasformato in pietra. Ridotto alla sua natura terrestre in forma pietrosa e immutabile. Voi pensate che questa sia l'analisi? No, questa è la pre-analisi del mito, perché alle strutture ancora non ci siamo arrivati. Ecco la prima. L'analisi che precede induce a distinguere tra due aspetti della costruzione mitica. Ci sono le sequenze, la serie di eventi e ci sono gli schemi. Cominciate a capire come diabolicamente ragiona Levi-Strauss. Non vuol dire che sia, può anche essere una roba che ci porta lontano, però lui così, questo è il suo mito. Allora, ci sono gli schemi, lui procede piano piano a costruire degli schemi dai più semplici ai più complicati, ma vediamo quello che dice, perché è chiarissimo qua cosa vuol dire antropologia strutturale. Le sequenze sono il contenuto apparente del mito, Gli avvenimenti che si succedono in ordine cronologico, incontro delle donne, intervento del protettore soprannaturale, nascita di Asdival, infanzia, visita al cielo, matrimoni successivi, uno via l'altro, è successo questo, sono le cronache, Ma le sequenze sono, su piani di ineguale profondità, organizzate in funzione di schemi, sovrapposti e simultanei, vediamo che paragone usa, come una melodia scritta per più voci, deve obbedire a un duplice determinismo, quello orizzontale della sua linea, appunto della melodia vera e propria, e quella verticale del contrappunto, degli schemi del contrappunto, cioè i vari strumenti che verticalmente intervengono in maniera sincronica e non diacronica sullo stesso asse verticale, cioè su un suono simile o molto simile. Facciamo per il presente mito un inventario di tali schemi. Allora, c'è uno schema geografico. Lo schema geografico più semplice è questo. Da est si va verso ovest e poi si ritorna ad est. Il tutto sullo sfondo di una contrapposizione tra nord e sud. Questo schema geografico è semplicissimo. È facilissimo vedere da quello che racconta il mito che questo schema corrisponde ai reali spostamenti stagionali degli indiani tsimshiani, che fanno esattamente questi movimenti per andare a procurarsi il cibo in posti diversi d'estate e d'inverno, come tutte le popolazioni nomadi o seminomadi di quel tipo lì. Poi c'è però uno schema cosmologico. Adesso si ritrovo. Secondo voi come va? Faccio presentazione. Si fa la presentazione, dovremmo essere qui. No. Dovrei trovare quelli che aveva chiuso? Sì. Sono sotto. Adesso però non so se si è fatto male, forse chiudi. Un calcio di dita. Allora. Qui, no? Sono qua. Sono qua. Sì, allora è quella, se ne devo beccare uno per uno, comunque. Non lo so. Ma ti devo beccare con l'uomo. Va bene, è questo. No, è questo. Ok, sì, questo è quello. Allora, questo è lo schema cosmologico. Ci sono tre visite soprannaturali. Mettono in relazione termini che sono concepiti rispettivamente come superiori e inferiori. Atzeas è l'uccello, all'inizio del mito, che genera, uccello di buon augurio associato al cielo atmosferico, non del cielo infine, quindi il cielo medio. Astival poi va a visitare il cielo empireo. Quindi allora, c'è un cielo atmosferico, poi il cielo empireo, che è più alto del cielo atmosferico, quando insegue stella della sera. Poi c'è il regno sotterraneo dei Sirichechi, il mondo sotterraneo, quando va con il topo, è il topo che lo porta lì. In altre versioni la signora topo, cioè una donna. La fine di Artival, bloccato dalla montagna, appare allora come una neutralizzazione della mediazione intermedia attuata dalla sua nascita. Lui è un mediatore, perché è figlio di un terrestre e di un dio, sia pure non del cielo empireo, ma del cielo. Quindi ha una, già nasce con una natura, e infatti media costantemente, va da un mondo all'altro, da quello empireo, però a un certo punto questa attività di mediazione è tutta bloccata, alla fine. Perché Attiva non è in grado di fare le due mediazioni estreme fra il cielo e la terra, e neanche tra il mare e la terra. Il cielo e la connessione del cielo terra corrisponde ad alto basso, la contrapposizione mare terra corrisponde a est ovest, per come è messa la costa nell'ambiente dei corpi. Ci siamo? Quindi, cielo atmosferico, terra, nascita di Artival e morte di Artival, e si svolge sempre in una dialettica tra cima e valle, e poi il cielo empireo identificato con l'est e il mondo sotterraneo identificato con l'ovest, tra cui, vedete, non c'è mai una congiunzione continua, non c'è mai un pezzo del mito in cui Artival va dal mondo sotterraneo fino al cielo empireo, no, si ferma sempre a metà strada, e la fine del mito è conseguente con questa struttura, perché si trova fermo in una situazione intermedia, in questo caso non tra cielo e terra, ma tra mare e terraferma, perché sullo scoglio eccetera, non ha le sue racchette, e quindi viene pietrificato, la sua mobilità viene. Questo è lo schema cosmologico. L'integrazione. I due schemi che abbiamo visto adesso però sono integrati in un terzo schema, che consiste in parecchie opposizioni binarie, tutte insormontabili per l'eroe, sebbene lo scarto fra i loro termini vada diminuendo. Le opposizioni iniziale e finale, alto, basso e sommità, valle, sono verticali, quindi dipendono dallo schema cosmologico. Le due opposizioni intermedie, invece, acqua, terra e caccia, caccia sul mare, caccia all'interno, sono orizzontali, quindi dipendono dallo schema geografico. Ma in realtà l'ultima opposizione, caccia marittima, caccia in montagna, che è anche la più ristretta, è sommità valle, associa i caratteri propri ai due schemi precedenti. È verticale per la sua forma, ma è geografica per il suo contenuto. È verticale per la forma, però per il contenuto è geografica. Il fallimento di Artival, per avere egli dimenticato le racchette da neve, per cui rimane bloccato a metà altezza, riceve quindi, vuol dire tre cose, diciamo diverse, combinate ma diverse. Vuol dire un evento geografico, un'opposizione geografica, un'opposizione cosmologica e un'opposizione logica. Vediamo come. Se la trovo, eccola qua. Eccola qua. Allora, da prima c'è una contrapposizione generale, che vedete mai, lì c'è alto e lì c'è basso. Questa è la prima contrapposizione generale. Poi, la contrapposizione alto-basso, nel basso, ho una sottocategorizzazione che è acqua-terra, giusto? Poi, nella terra, ho una traduzione tra caccia in mare e caccia in montagna, perché, non, perché mette caccia in mare sotto la terra? Perché in realtà sono tutti, cioè si svolge sugli scogli, la faccio su, cioè si svolge su dei piccoli pezzettini di terraferma circondati dal mare, ma c'è sempre la terra, non potrebbe fare, non è che lui va a pesca, va a caccia di trichechi, è una cosa diversa. Quindi siamo sempre nell'ambito di una dicotomia all'interno della terra, di una dimensione terra, caccia in mare, caccia in montagna. Perché caccio in mare ma abbarbicato su uno scoglio, e lì purtroppo rimarrò. E la caccia in montagna poi si divide a sua volta in cima valle. È facile rilevare la complementarità dei tre schemi quando sono ridotti ai loro contorni, mantenendo solo l'ordine e l'ampiezza delle opposizioni. Il primo schema, alto-basso, quello più grosso lì, è formato da una serie di oscillazioni di ampiezza costante, est, nord, ovest, sud, est. Est, nord, ovest, sud, est. Lo schema 2 parte da un punto zero, l'incontro a metà strada tra monte e valle, e prosegue con una oscillazione di media ampiezza, cielo atmosferico, terra, poi con oscillazione di ampiezza massima, terra-cielo, cielo-terra, terra-mondo sotterraneo, mondo sotterraneo-terra, che a un certo punto si estinguono nel punto medio, a metà altezza tra la sommità e la valle. Lo schema 3 comincia con un'oscillazione di ampiezza massima, eccolo qua, alto-basso, che si estingue con una serie di oscillazioni di ampiezza decrescente. Vedete che decrescono sempre. Acqua-terra è meno rilevante di alto-basso, è più specifico, quindi è meno. Caccia in mare, caccia marittima, caccia in montagna ancora, e valle, sommità, idem. Ma probabilmente i più interessanti sono gli ultimi tre schemi. Sì, Giulia. Eccolo qua. Questo è lo schema sociologico. Sociologico vuol dire che siamo sulla composizione di base del gruppo sociale, chi c'è dentro, papà, mamma, figli, eccetera, e la patrilocalità o la matrilocalità, cioè dove si fissa la residenza della coppia. All'inizio prevale la residenza patrilocale, che vi ricordate che le due donne sono libere di muoversi solo quando i due mariti muoiono, finché i due mariti sono bloccati lì. Quando rimangono sole sono libere di muoversi e di incontrarsi a metà strada. La residenza patrilocale viene progressivamente sostituita dalla residenza matrilocale, il matrimonio di Atenas. Si sposano con Atenas, allora diventa matrilocale, perché Atenas va a stare con la figlia, che diventa micidiale, matrimonio celeste di Asdiva. Poi semplicemente ostile, matrimonio con la gente degli abeti. Matrimonio fra le denti degli abeti, prima di indebolirsi e di rovesciarsi, quando fa il matrimonio con le denti del canale, per permettere finalmente un ritorno alla residenza patrilocale. Quindi c'è un movimento da patrilocale, vedete, si parte da patrilocale, residenza patrilocale. Lo schema è madre, figlia e non c'è un marito. A un certo punto, quando arriva un marito, la residenza diventa matrilocale, Atenas va a vivere con la più giovane. Quindi abbiamo marito, moglie, nei due casi successivi abbiamo cognati, quindi la residenza diventa matrilocale, ma nell'ultimo episodio la residenza diventa patrilocale, addirittura tanto patrilocale che l'ultima parte del mito racconta soltanto di Asdiva e di suo figlio, non c'è più neanche, scompare, padre. E figlio e non c'è neanche più la moglie. Quindi vedete com'è simmetrico? Residenza patrilocale, madre e figlia senza marito. La residenza diventa matrilocale, marito, moglie, cognati, poi ridiventa residenza patrilocale ma invertendo la composizione della famiglia, non più madre e figlia, ma padre e figlio. All'inizio era senza marito, adesso senza moglie. Vedete com'è simmetrico? Dice lui, poi no. Chiaro che lo Tsimshian avrebbe riso dietro, probabilmente, però lui fa così. Tuttavia, lo schema sociologico non ha una struttura chiusa, come lo schema geografico di prima, quello lì, quello grosso, lungo. Perché mette in scena all'inizio una madre e una figlia, a metà un marito, sua moglie e i suoi cognati, e alla fine un padre e un figlio. In realtà poi c'è una storia, va avanti, perché c'è la storia anche del figlio di Asdrubal, che non vi faccio però. Passiamo invece allo schema tecno-economico, cioè uno schema anche che spiega il rapporto tra tecnica e economia. Lo andiamo a beccare esattamente qua. Sì, ecco qua. Allora, ve lo leggo se non arrivate a leggerlo. Allora, abbiamo una situazione iniziale del mito. C'è una carestia d'inverno. L'inizio è una carestia. Come si esce dalla carestia? Con le due attività principali reali degli Tsimshian. Prima si pesca il pesce candela, poi si pesca il pesce salmone. Nel frattempo questi due cicli di pesca portano a un passaggio dalla pesca alla caccia. Quindi questo schema tecno-economico in realtà è costantemente uno schema anche di tipo geografico in qualche modo, e anche di tipo non solo tecno-economico, sì, ma anche perché segue gli spostamenti stagionali. Il mito descrive il rapporto tra modo di procurarsi il cibo degli indiani e alla fine vediamo se e come è possibile integrare tutte queste robe in uno schema più globale. Allora, alla fine, se riduciamo il mito alle sue due proposizioni estreme, l'inizio e la fine, che riassumono la sua funzione operativa, abbiamo un quadro semplificato. C'è un asse orizzontale che determina quattro diverse coppie oppositive. La coppia femmina-maschio, che è la prima. La coppia di coppie, siamo già a una est-ovest contrapposto a alto-basso. Est-ovest, orizzontale, alto-basso e verticale. La coppia fame e saturazione, fame e abbondanza. E all'ultimo la coppia movimento e mobilità. Sulla destra abbiamo la situazione iniziale del mito. All'inizio abbiamo due femmine, un movimento tra est e ovest, c'è una carestia, quindi tutti hanno fame, c'è del movimento, la gente si muove perché appunto c'è la carestia. Alla fine non abbiamo più donne, abbiamo solo maschi. Sono rimasti solo Asdrubal e suo figlio. Il movimento non è più, l'opposizione non, diciamo, pertinente non è più quella tra est e ovest, ma quella tra alto e basso. Scoglio mare, scoglio terra. La situazione non è quella di fame. Asdrubal non muore perché ha fame. Ha fatto una gran caccia e a posto muore perché non ha più le racchette e non si può più muovere. E quindi muore perché la situazione finale è l'immobilità contrapposta a quella di prima del movimento. Quindi questa è la... sono... quindi questi schemi che vi ho dato sono i sei schemi. Ripetiamo che sono lo schema geografico, lo schema cosmologico, lo schema integrativo, lo schema sociologico, lo schema tecno-economico e alla fine l'integrazione globale di tutti questi schemi. Allora, questa roba la finiamo la volta prossima. perché dobbiamo capire qual è il senso di tutta questa roba, perché non è che non c'è, cioè, finora abbiamo soltanto costruito le premesse per, però già dalla situazione in cui siamo adesso capite più o meno che cosa si intende per antropologia strutturale. Si intende un tipo di analisi che, ripeto, adesso non voglio, può essere più o meno interessante, più o meno giustificata, e sai, sui pro e sui contro, ma che, come vedete, è un'analisi che non è che si allontana dal livello concreto, perché parla sempre di come dice il mito, di cosa parla il mito, eccetera, e lo rapporta con le strutture reali di queste popolazioni, ma cerca di capire cerca di introdurre delle relazioni, e vedrete che lo farà in modo ancora più forte nella parte successiva. L'altra volta finiamo in un quarto d'ora questa parte, ma non è molto lunga. E quindi siamo liberi di fare poi qualche commento sulla questione del linguaggio, però già diverso viene fatto adesso, non è che non penso che devo raccontarvi per disteso tutta la dispensa che vi ho dato. Se avete delle cose che non avete capito, leggetela da oggi al prossimo lunedì, al limite mi chiedete delle cose. E poi finiamo con una serie di considerazioni sul concetto di, adesso tra i tanti che volevo fare, ve ne farò solo uno, sul concetto di antropologia interpretativa. Cioè la domanda che affronteremo è: ma l'antropologia riguarda dei fatti o delle descrizioni? È chiaro, cioè, perlomeno vagamente, che cosa suggerisco che si possa dire. Io spero che le più attente tra voi sappiano già o indovinino già la mia risposta, però ovviamente la argomenterò questa risposta, non ve la darò come pure esempio, meglio ve la farò dare da persone che ne sanno più di me, in modo particolare dall'antropologo Clifford Geertz, che è l'ultima grande figura dell'antropologia di cui parleremo. Grazie per l'attenzione.